Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Questa è una storia di morti e di vivi. Una storia strana, per certi versi incredibile. Fatemi credito di un po' del vostro tempo e mi darete ragione. Sappiate però fin d'ora che sono disposto a giurare sulla luce degli occhi miei che ogni singola parola che sentirete qui appresso corrisponde a verità. Sono Filippo Demma, napoletano emigrato a Roma oramai da 15 anni, faccio l'archeologo, lavoro alla sovrintendenza per i beni archeologici del Lazio al Museo di Palestrina. Di tanto in tanto insegno archeologia classica all'Università di Roma La Sapienza. Questo incipit qui, quello di Filippo, è, credo, il più shakespeariano che abbiamo mai letto. Avete presente? Cos'è? Enrico V, mi pare, in cui ne ha fatto anche Kenneth Branagh, che ha fatto anche un film, che comincia proprio con questo tizio che dice: adesso sospendete il vostro giudizio, immaginate qui un campo, immaginate delle colline, immaginate dei soldati che arrivano di qui e che partono di là, e questo teatro vi rappresenterà, eccetera, eccetera. E spesso anche nei finali, nel Sogno di notte di mezz'estate, alla fine Puck dice: se questa roba vi ha annoiato, pensate che sia stato solo un sogno. E il racconto di Filippo, quando è arrivato, l'abbiamo letto, ci ha colpito perché cominciava in questo modo, no? Questa è una storia di in realtà sembra anche un po', come si chiama? Carlo Lucarelli, no? Questa è una storia di vivi, è una storia strana. Avete presente quando faceva Blu Notte? 349-238-6666. La storia di oggi è la storia di un uomo che fa l'archeologo di mestiere e che scopre le cose. Se però oggi vi viene in mente qualcosa che di recente o in gioventù, quindi 10 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa, avete scoperto, 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Tanto le cose vanno così, che oggi è Pasquetta, è lunedì 9 aprile 2012, quindi nessuno starà ascoltando questo programma, in sostanza, perché vi starete facendo delle grigliate. No, aspetta, cosa si mangia a Pasquetta? L'abbiamo mangiata anche prima giù in mensa. La frittata si mangia, no? Allora, al mio paese, e Margherita Ina è d'accordo, come si mangia? Allora ragazzi, a Pasquetta si mangia la frittata, e se c'è qualcuno che l'ha mandata me lo scriva, 349-238-6666, si mangia la frittata. Addirittura prima cercavo che, vabbè, la tradizione della cucina, della Pasquetta, chi se ne frega, però, e poi ci penserà il gastronauta, no, a farlo, no, non chi se ne frega, il gastronauta, sto dicendo che ci pensa il gastronauta a parlare di cosa si mangia a Pasquetta, però visto che anni fa, adesso sono qui alla sede del Sole 24 Ore, ma anni fa io mi ero trovato il giorno di Pasquetta in un posto che si chiama Sessa Urunca, che è un paese del napoletano, tra l'altro credo sia una zona di Filippo, perché Filippo vive a Roma ma è di quella zona là, dove c'è questa grande tradizione, e lì si mangia la frittata di maccheroni, si mangia, cioè la pasta fatta con la frittata, vabbè, poi il casatiello, si mangiava carciofi, vabbè, ma chi se ne frega. Se c'è qualcuno di Sessa Urunca, 349-238-6666. La puntata di oggi, ripeto, per tutti voi che siete in auto e state tornando dalla vostra frittata, dalla vostra grigliata, parla di quello che avete scoperto, della cosa, diciamo, più assurda o più importante che avete scoperto nella vostra vita. Filippo, di mestiere, fa l'archeologo e tanti anni fa ha scoperto questo. Questa è una storia di morti e di vivi. Una storia strana, per certi versi incredibile. Fatemi credito di un po' del vostro tempo e mi darete ragione. Sappiate però fin d'ora che sono disposto a giurare sulla luce degli occhi miei che ogni singola parola che sentirete qui appresso corrisponde a verità. Veroli è un bel paesino della Ciociaria, di storia antica e nobile. Prima del giro del millennio io abitavo nella periferia sudorientale di Roma, a Centocelle. Da lì Veroli distava esattamente 95 chilometri. Li percorrevo ogni mattina con l'autobomba, una vecchia Audi 80 immatricolata 9 anni prima, modificata con impianto GPL, acquistata per 3 milioni di lire. Avevo appena finito il servizio civile e iniziato il dottorato di ricerca, ma con il primo esperimento moruxorio in corso e le rate della borsa di studio in clamoroso arretrato, non rifiutavo qualche lavoretto per arrotondare, cose tipo i soliti scavi di emergenza. Nemmeno a 95 km di distanza. Credo prendessi 180.000 lire nette al giorno. Insomma, ci si poteva stare. Si può fare l'archeologo in moltissimi modi e pochissimi di questi sono pagati in maniera decente. E si può fare l'archeologo come lo fa la maggior parte degli archeologi italiani e come l'ho fatto anch'io fino a 2 anni fa, facendo il collaboratore esterno delle sovrintendenze. Partivo la mattina con il sole in faccia appena sorto. Parcheggiavo fuori dalle mura e risalivo a piedi fino alla piazza principale. Il cantiere era nelle cantine del palazzo municipale, costruito in parte sopra l'antico foro. Monaci, cavalieri e poveri cristi si erano fatti chiese, stalle e case su quanto rimaneva della città degli Ernici, ammassando come di consueto muri su muri e lasciando le ombre di comignoli e soffitte a regnare sulle vie strette e contorte del borgo. Certe mattine di febbraio, spazzate dal vento e nemmeno un'anima in circolazione, sembrava di essere finiti in uno di quei paesini covo di streghe, fermi nel tempo, in mezzo ai monti. I locali dove lavoravamo erano aperti su una stradina laterale, umidi, bui e gelati. Mai visto operai dare giù di pale e picco tanto volentieri. Mi ricordo il pane grosso con la carne di maiale, il vino spesso, l'odore di legna bruciata per i vicoli e le frequenti pisciate al bar. Sì, a me il gelo prende sempre la vescica. Mi ricordo anche una soffitta e una finestra con un vetro rotto nella stradina d'angolo che dava sulla nostra, cioè quella dove ci trovavamo. Un vetro rotto a Veroli d'inverno non può essere che un chiaro segnale di casa abbandonata. La cosa però era vera parzialmente, perché in realtà un enorme gatto nero, dal pelo lucido e curato, lasciava spesso scorrere su e giù i suoi occhi gialli, facendoli scivolare dall'alto di quell'abbaino. Non c'erano gatti randagi a Veroli, troppo freddo per sopravvivere. Doveva trattarsi di qualche animale lasciato libero di girare, che si era fatto tana e garçonnier nella soffitta abbandonata. Lo scavo in sé non fu un granché, ma a un certo punto venne fuori una strada romana. Al lato del lastricato trovammo una strana tomba, una sepoltura che qualche avanzo di lucerna ci datava VII secolo d.C. Tecnicamente era una deposizione trisoma, vale a dire un'unica fossa per tre corpi, nella fattispecie deposti uno sopra l'altro. Praticamente una gran rottura di palle. Bisogna immaginarli, uno ad uno, i 1300 anni che si spolpano i tre poveracci. Tirano via a morsi lenti tutta la ciccia e lasciano le ossa. Tutte, una sull'altra, intrecciate, sporche di terra, e tu, 1300 anni dopo, te le devi ripulire. Fu allora che il gatto nero decise di venire a farci visita. Take the time to count the cracks and lines in the far walls. The cell that follows you wherever you go, and the black swan. Il gatto si appollaiava in un angolo, sopra un mensolone a mezza altezza, e ci guardava ripulire i morti. Non si avvicinava, non prendeva il cibo che i ragazzi gli tiravano e non si lasciava accarezzare. Alla fine si capì che i tre disgraziati oggetto delle nostre postume cure erano stati ammazzati e buttati di corsa al lato della strada. Ci avevano tutti lesioni sparse. La fossa era poco profonda, scavata la belle meglio. Nemmeno una moneta, manco piccola piccola, se l'erano ripuliti ben bene, prima di atterrarli, i disgraziati. A me, invece, per ripulire dalla terra quello che i briganti avevano lasciato, insieme a uno solo dei due operai, mi ci volle una settimana. Intanto la porta della cantina rimaneva aperta. All'inizio lasciavo che la gente di passaggio entrasse, mi pareva giusto che sapessero cosa accadeva in casa loro. Finché non mi ruppi le palle di rispondere gentilmente per la millesima volta alle stesse domande e chiusi i battenti, rinunciando anche al sottile raggio di luce naturale che riusciva a penetrare le viscere di Veroli. Così, da un paio di giorni, lavoravamo a porte chiuse. I morti erano ormai belli e smontati, ognuno nella sua brava cassettina. Le capoccette da un lato, i braccini dall'altro. Intanto il misterioso gatto nero era scomparso. A un certo punto, Gigi ed io incrociammo gli occhi gialli del gatto appollaiato sulle cassette di ossa. Contemporaneamente, un'inconsueta raffica di vento gelato si infilò ululando nei vicoli e tra le case strette le une alle altre. Il portone di castagno pesante, solo accostato, non resse all'impeto dell'aria e si spalancò di botto, facendo gemere i cardini come bestie e ribattendo pesantemente sui suoi stessi stipiti. Fu allora che un'ombra si allungò sull'impiantito di cemento. Tre uomini, alti, vestiti di nero, fissavano le cassette con le ossa umane, guardando circospetti il gatto. La bestia aveva rizzato il pelo e soffiava forte, scoprendo i denti. Il più alto dei tre mosse due passi verso di noi e cacciò una voce stridula e disse: Carabinieri! I carabinieri, in realtà non si è capito se fossero venuti per curiosità o così, per dovere d'ufficio. Certo è che si sono proprio presentati così, cioè ci hanno detto che c'è un morto. E il gatto nero in realtà era una compagnia, era piuttosto inquietante, però era una compagnia. Sbuffando mi alzai, mi diedi una ripulita sommaria ai pantaloni incrostati di terra secca e fronteggiai gli intrusi. Buongiorno maresciallo, dissi. Brigadiere, mi rispose. Chiedo scusa. Buongiorno brigadiere, mi dica. Senta, siamo venuti a sapere che qui c'è un morto, disse lui. Beh, veramente di morti ce ne sarebbero tre, risposi io. I tre sbarrarono gli occhi, avevano la faccia sbigottita. Il brigadiere probabilmente già si immaginava nei panni del più famoso superiore onorario, il maresciallo Rocca. Tre morti, disse. E quando ci chiamate? Beh, veramente ci siamo già noi, dissi io. Ah, e voi chi siete? E io risposi: Sal. Sal, disse lui. Non mi suona. Soprintendenza archeologica per il Lazio, dissi. Lui mi guardò e rispose: Soprintendenza archeologica? E da quando avete competenza pure sugli omicidi? Marescià, è che quelli, i morti, sono morti 1300 anni fa. Il maresciallo tirò un sospiro di sollievo. Poi però disse che quelli sempre morti erano e noi avremmo dovuto avvertirli. Io confessai che con il mio lavoro spesso capitava di trovare dei cadaveri. Faceva parte del mestiere dell'archeologo, ma non per questo le forze dell'ordine chiedevano una denuncia. Lui mi guardò e disse: «E se gli altri sono negligenti, io che ci posso fare? Se c'è un morto qua, noi dobbiamo essere avvisati. Passate al comando più tardi per la deposizione». Gli spiegai allora che avremmo portato i corpi in magazzino e lui disse: «Sì, ma prima della traslazione ricordatevi di favorire l'indirizzo del luogo dove intendete trasportare le salme». Io ancora provai a dirgli che quelle non erano salme, erano solo ossa. Ma lui chiuse la conversazione dicendomi: «Giovanotto, voi siete indisponente e secondo me pure un poco comunista». Su questo non ci posso giurare, ma quando i tre sono usciti, il gatto rideva. Always 349 238 6666, oppure voi siete qui @radio24.it. Oggi si parla delle cose che avete scoperto. Cioè, certo, se uno fa l'archeologo è più facile scoprire delle cose, se invece uno non lo fa magari le scopre un po' per caso, tipo Sergio che scrive sul profilo Facebook: io da bambina in spiaggia scavavo, non facevo altro che scavare nella sabbia, anch'io scavavo in continuazione, non facevo altro che scavare nella sabbia davanti alle sedie sdraio dei miei genitori, ho trovato di tutto: monete italiane e straniere, anelli, orecchini, un fazzoletto, un orologio e un vasetto di marmellata, immagino piccolo, non quelli tipo quelli da albergo. Non so se anche Filippo scavava quando era piccolo oppure se è una roba che gli è venuta solo dopo. Pronto Filippo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Senti, volevo chiederti, la prima roba è com'è che uno decide di fare l'archeologo? Cioè, è una cosa che appunto ha la passione per cercare cose antiche, e questa è la prima banalità che mi viene in mente, ovviamente, oppure vai semplicemente che scarti tutte le altre materie scientifiche e umanistiche e ti trovi a fare quello, oppure no? No, era da un lato per me era la passione per i viaggi e dall'altro era... l'idea di poter guardare, poter capire le cose, poter guardare un oggetto e cercare i mezzi per ricostruirne la storia e la forma, il significato. Tu che studi avevi fatto alle superiori, quindi classico? Ho fatto il liceo classico, sì. E senti, nel momento in cui poi finisci l'università, tu questo racconto arriva più o meno da quel periodo lì, giusto? Avevi cominciato il dottorato o avevi finito il dottorato? Avevo stavo finendo la specializzazione e avevo iniziato il dottorato. Quindi, scusa, da quanti anni stavi, per capire, cioè se uno volesse fare archeologia oggi, nel 2012, quanti anni lo aspettano? Oggi è un po' cambiata. Oggi è un po' cambiata la cosa. Quando l'ho fatta io dovevi fare una laurea in lettere, classiche e moderne a seconda dell'indirizzo che avresti voluto seguire poi, e poi fare una specializzazione di 3 anni e teoricamente saresti stato pronto. In realtà poi, essendo i posti molto limitati, c'era un'ulteriore possibilità che era quella appunto di fare il dottorato di ricerca, però era un po' difficile, c'erano pochi posti, pochissime borse di studio, bisognava fare un concorso. Insomma, in tutto io ho studiato 11 anni, però continuo a studiare. Oggi invece esiste la possibilità di iscriversi a corsi di laurea specifici, una triennale più una biennale e poi una specializzazione di 2 anni, credo. Quindi comunque almeno 7 anni sempre? Sì, almeno. 7-8 anni di studio? Senti, però cominci a scavare, cioè sin da subito, no? Cioè, come, scusa, perché a me viene in mente che come quelli che fanno agraria iniziano a coltivare già a scuola, uno che fa archeologia immagino cominci a scavare sin da subito, no? Sì, io ho cominciato al secondo anno, ho fatto il primo scavo didattico al secondo anno. E dove vai a scavare? Dove ti mandano? Guarda, all'università, le università, soprattutto le più grandi, hanno dei cantieri didattici, dipende dall'università. Quella di Napoli dove lavoravo io ne aveva diversi. Io ho lavorato con l'Università di Napoli in un castello medievale in provincia di Avellino, a Montella, e poi invece in un villaggio di montagna in Francia, nella Francia meridionale, si chiamava Javol. Ma scusa una cosa, Filippo, ma è vero come si dice che in Italia dovunque tu scavi trovi della roba? Cioè, quindi in teoria la sovrintendenza dovrebbe andare ovunque, no? Cioè, anche se si scava a Romentino, di fianco a casa mia, immagino che si trovi una roba, perché era tipo un insediamento gallico, che io sappia, al mio paese. Quindi è chiaro che trovi della roba, giusto? Sì, ma, sì. Tra l'altro mi dice, scusami, ma la mia redattrice Margherita, che è del mio paese, perché il nepotismo esiste anche a Radio 24, ci sono degli scavi a Romentino, tra l'altro che è di fianco a un paese che si chiama Gagliate, perché era un insediamento gallico. Quante ne so? Ne so tantissime, Filippo, Bravissimo. Quindi mi confermi che è vero, che ovunque si scavi si trova della roba. Senti, dimmi invece qual è la scoperta di cui vai più orgoglioso, lo scavo di cui vai più fiero. Guarda, quello che ti insegnano all'università è che non si scava per scoprire, non si scava per trovare, si scava per conoscere. No, ma che noia, ma io già mi immaginavo Indiana Jones, capito? Te lo giuro. Scusa, Indiana Jones era un archeologo, giusto? Sì, era un archeologo, sì. Che ti ha un po' influenzato, dimmi che ti ha un po' influenzato, dimmi che hai visto... Assolutamente sì. Grande. Assolutamente sì. Quindi vai in giro con una frusta e un cappello anche tu. No, sì, ti giuro, sul primo scavo in realtà lo portavo un enorme cappello di paglia, ma più che altro nel sole. Senti, insieme all'Audio 80, l'autobomba, scusami, l'autobomba era magnifica, già ti immaginavo su quelle strade arrancare con l'Audio 80, che erano delle macchine veramente più terribili dell'epoca, non più. Senti, invece lo scavo di cui, diciamo, non la cosa che hai scoperto, però lo scavo più importante che tu abbia fatto. Ultimamente sto scavando vicino a Roma, che poi il museo, l'ufficio di competenza Palestrina, che è una città molto antica, l'antica Preneste, ma antica quanto Roma, e abbiamo tirato fuori un bellissimo santuario 4 anni fa, l'abbiamo scavato per oltre un anno, che poi quello che crediamo fosse il mercato degli schiavi. Cioè un mercato, quindi, degli schiavi? Esattamente. E come lo riconosci, scusami, da cosa riconosci che è un mercato degli schiavi? Questo è il problema. In realtà sappiamo che doveva avere delle caratteristiche, un ingresso molto piccolo, uno spazio scoperto molto grande, un ingresso molto piccolo deve essere facilmente controllato. Insomma, ci sono dei parametri, e quindi se più o meno ritornano quei parametri lì, immagini che sia quella cosa lì, giusto? Esattamente. Ok. Senti Filippo, starei delle ore a parlare con te, però non posso, e quindi ti ringrazio. L'ultima cosa, che è una cosa che chiedo sempre, per cui in realtà poi mia madre si arrabbia sempre, ma io lo faccio: quanto si guadagna facendo l'archeologo, più o meno? Normalmente si guadagna poco, qualcuno guadagna molto. Va bene, la risposta mi piace. Ti ringrazio molto, Filippo, per le chiacchiere e per il racconto. Grazie a te. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao anche a te. Piero mi scrive: ho trovato ieri un divano per strada, ora è nel mio salotto. Adesso la borsa. Anzi no, non c'è la borsa. Oggi è Pasquetta, non c'è abbiamo trovato un altro giorno in cui non c'è la borsa. Venerdì Santo, abbiamo detto, Natale e Pasquetta. Voi siete qui. Voi siete voi qui. Siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Mi piacerebbe tanto dire che Filippo ha la faccia da archeologo, ma non lo dico perché sarebbe una stupidaggine come moltissime delle cose che dico. È una foto però di quelle credo elaborate per far veder sì e far veder no. Però Filippo è a metà tra Russell Crowe e c'ha il pizzo, i capelli un po' mossi e il regista di quel film che si chiamava Super Size Me. Avete capito chi è? Io non mi ricordo il nome, cioè, questa volta non lo so proprio, non è che non me lo ricordo, però a breve secondo me lo troviamo. Comunque avete capito di chi parlo, quel tizio che ha fatto quel documentario che ha mangiato per un mese solo McDonald's per far vedere che McDonald's fa male, che tra l'altro, no, dico, cioè sai che novità, devi essere proprio americano per non sapere che se mangi per un mese da McDonald's come minimo muori. Vabbè, Filippo, se ve lo ricordate, ricorda un pochettino quell'attore regista documentarista lì. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Questo è un programma in cui raccontiamo storie, raccontiamo ogni giorno una storia diversa. Se volete partecipare e avete voglia di scrivere un episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi, tornate a casa dopo la frittata che avete mangiato, dopo la grigliata, la frittata, vi assicuro che si mangia la frittata. Tra l'altro mi ha scritto un messaggio uno da Sessa Urunca, che è questo paese nel napoletano, che dice noi abbiamo appena finito di mangiare la frittata. Oltre alla frittata abbiamo mangiato carciofi arrostiti, uova sode e pastiera. Così, giusto per dirlo tanto a quelli là. Comunque, a proposito, è arrivato un messaggio di protesto. Ovviamente non è nepotismo quello tra me e Margherita Hina. Io e Margherita Hina non ci conoscevamo minimamente a Romentino. Un po' come i partecipanti ai quiz. Vi conoscete tra di voi? No, non ci conoscevamo. E quando siamo arrivati qui a Radio 24 mi ha detto: ma dimmi tu, con tutti i posti proprio da Romentino, le cose che avete trovato, 349-238-6666. Paola, ho appena trovato una scatoletta di tonno in frigo che pensavo di non avere, ora mi faccio la merenda. Chiara, ho trovato la mia bicicletta che mi avevano rubato, era stata ridipinta ma l'ho riconosciuta dal campanello. E poi ancora Roberto, sono in vacanza, non si capisce dove, ho trovato una Bibbia nel comodino della mia stanza d'albergo, sarà perché è Pasqua? No, a parte che perché è Pasquetta, è proprio perché è proprio usanza, cioè perché si usa, non so se è una roba però più americana quella di tenere le Bibbie, no, è una roba nostra, è una roba nostra, che effettivamente non dappertutto, però in moltissimi alberghi c'è una Bibbia nel comodino, non si capisce bene perché, perché uno dovrebbe offendersi, Tiziano, perché trovi la Bibbia nel comodino? Vabbè, insomma, non, ah, perché uno dice non ci crede, vabbè, ma è un gesto scaramantico, immagino, no? Cioè, un po' come... un po' come tutte le cose inventate dall'uomo, cioè c'è un... Vabbè, non è il giorno adatto per entrarci. Oggi è Pasquetta. Abbiamo scoperto come si chiama il regista. Il regista si chiama Morgan Sparlo, che era un regista documentarista che ha fatto questo documentario, ripeto, che si chiama Super Size Me. Da cui è stata tratta anche poi una lunga serie di una long serie, un serial televisivo. 349-238-6666. È arrivato un altro messaggio. Eccolo qua, primo. Io ho trovato dei vecchi VHS in cantina dei miei quando cercavo altri mobili da portarmi nel mio appartamento da universitario a Udine. Non sapevo cosa contenessero e non sapevo nemmeno come guardarli, visto che non ho videoregistratori. Dopo 2 anni ho trovato un vecchio videoregistratore usato e ho guardato quei film e ho scoperto tutti i film di Truffaut, che uno spera tanto, trova dei vecchi VHS e invece no, niente, i film di Truffaut. Giovanni, ho trovato un manoscritto e l'ho mandato a un editore. Gli ho raccontato che era un libro trovato in una cassapanca della soffitta di casa dei miei nonni, che era una vecchia storia che raccontava della mia famiglia. Forse presto diventerà un libro. Guarda, Giovanni, se, guarda, se con questa gabola qua sei riuscito a far su un editore, diventi veramente il mio migliore amico per tutta la vita. Se invece te la sei inventata questo messaggio, forse diventi anche un mio amico ancora di più. Sì, giustamente qui le persone più colte di me dall'altra parte mi ricordano è un testo teatrale o è un racconto o è un romanzo, un manoscritto ritrovato a Saragozza, che è la storia. Beh, ma scusami, ma anche I Promessi Sposi in teoria è un manoscritto ritrovato. Giovanni, è vecchia come scusa. L'abbiamo elaborata in questi 30 secondi, è una scusa veramente vetusta. A proposito però di libri che sono stati pubblicati, quando abbiamo letto il racconto di Filippo la nostra scarsa fantasia ci ha fatto venire in mente il romanzo, la storia che parla di cose scoperte, e cioè L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, di cui veramente nessuno si ricorda benissimo come è andata a finire e come è cominciata, come la storia, però tutti si ricordano quantomeno il momento in cui l'equipaggio arriva sull'isola e scopre la buca dove dovrebbe esserci il tesoro. Silver arrancava, grugnendo sulla sua gruccia. Le sue narici dilatate tremavano. Bestemmiava come un turco quando le mosche gli si posavano sul volto acceso e lucido di sudore. Dava furiosi strapponi alla corda che mi legava a lui e di tanto in tanto si volgeva verso di me con un'occhiata assassina. Non si preoccupava certo di nascondere i suoi pensieri, che io leggevo come in un libro aperto. Nell'immediata prossimità dell'oro aveva dimenticato tutto il resto. Assediato da tali timori, stentavo a tenere dietro al rapido passo dei cercatori del tesoro. Spesso inciampavo, ed era allora che Silver tirava così bruscamente la corda e mi fulminava con quei suoi sguardi. Dick, che ora si era accodato a noi e formava la retroguardia, parlava tra sé nella crescente eccitazione della febbre, biascicando preghiere e bestemmie. Toccavamo intanto il margine della macchia. «Urrà, compagni, su, tutti insieme!» tuonò Merry. E quelli che erano in testa si misero a correre. Ma non avevano fatto 10 metri che li vedemmo arrestarsi di botto. Un grido strozzato ferì l'aria. Silver accelerò il passo, zappando col piede della sua gruccia come un indemoniato. E in un attimo piombammo là. Una larga buca ci si apriva davanti, scavata da tempo, perché i fianchi apparivano franati e sul fondo germogliava l'erba. Lì dentro stavano un manico di vanga spezzato in due e sparse qua e là tavole di casse da imballaggio. Sopra una di queste io lessi impresso a fuoco il nome Walrus, il nome della nave di Flint. Tutto era chiaro fin dall'evidenza. Il nascondiglio era stato scoperto e svaligiato. Le 700.000 sterline erano sfumate. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. 349-238-6666, Serena. Ho appena trovato casa e la cercavo solo da qualche giorno. E di solito quando trovi casa subito, Serena, è perché proprio ne hai bisogno, altrimenti te ne guardi 20 prima. E poi questo è il mio messaggio preferito di questo giorno di Pasquetta. Marco, mi hanno rubato la macchina e quando l'hanno ritrovata nel bagagliaio c'era un cappotto. Io l'ho lavato e ora lo uso per andarci in giro. È pure più grande della mia taglia, ma è una sorta di vendetta nei confronti di quei maledetti ladri. Questa, guarda Marco, è una chiave di lettura che secondo me è la migliore di tutte. Cioè non è che ti liberi della roba che trovi, ma se puoi farne tesoro in qualche modo, te la lavi e te la porti addosso. È finita anche la puntata di Pasquetta. Voi starete tornando a casa dopo la vostra maledetta frittata che avete mangiato e vi auguro una buona digestione. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata festiva, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Filippo e parlava delle piccole grandi scoperte. La storia di domani è la storia di Paola e parla del mondo visto da un balcone. Tornò in camera e si accese un'altra sigaretta, che va sempre bene. Si rimise sul balcone e guardò la strada. Alla luce del giorno sembrava ci fosse ancora più confusione e che tutto fosse ocra. Prima di partire era curioso di sentire il famoso odore dell'India. Posò la sigaretta e annusò l'aria. L'odore dell'India, in realtà, sembrava una puzza.